piace il cor per ingannare altrui. Oggi sono in Cleonia, ogni la prenda caio. Fra queste ermette, forse mai rimembrando, detto la sventurata l'amor tradito e la giurata fede. Allor che le tue voci ostili ascolto, e il tuo volto rimiro, e gli atti e i modi, così di toglia io le fattezze ammiro, che se uomo non fossi toglia ti crederei. Perciò mi forzo sempre che te io parlo, sentir del primo amor sovente il tarlo. Ma se questo ti punge, ordegni a Dio, perché fido non torni a consumar. Forza di nuovo fuoco il primo estinse. Ma intanto di quella sempre sull'ambro tu già sentir qual difensore il nome. Sì, perché la conobbi e seco spesso favellando di te piansi al suo pianto. Ed ora il rammentar le sue querele ambitoso pensier ne poggia in seno. Scopro, o vengo meno, che posso io forse più di lei non cono. Forse in questo momento guarita nel suo tuo lida consola il passato partir con altro amante. Questo giammai non via che ognor costante più che tradita in me ti serba mole. Crudo, ingrato amante, atterraditore, la cagion quale sia, der non possio,